Passo la parola a Patrick Doel della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione Europea. Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto agli organizzatori per l'invito e l'opportunità data anche alla Commissione europea di contribuire a questo evento su questo tema molto sensibile che è stato l'oggetto di questo importante studio da parte dell'IPRS. Sì, mi chiamo Patrick Doel, sono funzionario della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione Europea e lavoro da 4 anni qui a Roma presso la rappresentanza della Commissione Europea sulle questioni migratorie. Nel mio intervento vorrei dare una breve presentazione, diciamo, del quadro europeo. Su questa tematica, iniziando ovviamente con la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, che prevede esplicitamente che ogni persona, e quindi non si parla solo dei cittadini europei, ma di ogni persona, che ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Quindi questo ovviamente anche comprende la salute psichica. Per quanto poi riguarda più specificamente i migranti, questo diritto fondamentale è stato tradotto innanzitutto nella direttiva europea del 2013 sulle condizioni di accoglienza, che prevede in particolare l'obbligo degli Stati membri di assicurare che i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, che comprende non solo le prestazioni di pronto soccorso, ma anche il trattamento essenziale delle malattie e anche dei gravi disturbi mentali. Inoltre, gli Stati membri devono fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica. Quindi c'è un chiaro riferimento nel diritto europeo a questa dimensione. Questi obblighi sono ovviamente anche previsti nella nuova direttiva accoglienza che la Commissione ha proposto nel 2016 e sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già raggiunto un accordo a livello politico, però che non è ancora stata formalmente adottata per via della situazione di stallo che c'è attualmente sul sistema europeo comune di asilo, e che la Commissione sta provando un po' di uscirne da questo stallo attraverso la presentazione recente del patto sulla migrazione e l'asilo, che è stato, diciamo, presentato nel settembre scorso, e dove adesso sono iniziate le negoziazioni a livello del Consiglio, ma anche con il Parlamento europeo. Il patto promuove un approccio, diciamo, comprensivo del fenomeno della migrazione, che include ovviamente anche una prospettiva a lungo termine, non solo la gestione di crisi, e riconoscendo anche il contributo fondamentale che le migrazioni hanno già dato e continueranno a dare alle società europee. E il successo delle migrazioni poi ovviamente dipende anche da una buona integrazione, da una buona politica di integrazione dei migranti, che rimane ovviamente essenzialmente, principalmente della competenza nazionale, però dove già dall'adozione del piano europeo sull'integrazione nel 2016 l'Unione Europea ha intensificato, diciamo, il suo sostegno agli Stati membri e a tutti gli altri stakeholders, portatori di interesse, per aiutare, diciamo, i loro sforzi in questo ambito. E il nuovo patto adesso prevede anche l'adozione di un nuovo piano di integrazione per il periodo 2021-2024 che dovrebbe essere adottato martedì prossimo dalla Commissione europea e presentato poi alle altre istituzioni europee e agli Stati membri. Allora, il piano d'azione integrazione del 2016 aveva già riconosciuto l'importanza dell'accesso ai servizi di base come la salute, essendo ovviamente dimostrato che i problemi di salute e la mancanza di accesso ai servizi sanitari possono rappresentare un serio e continuo ostacolo all'integrazione, con ripercussioni anche su praticamente tutti gli altri campi di vita e sulla capacità poi dei migranti di accedere all'occupazione, all'istruzione, all'apprendimento della lingua, del paese di accoglienza e anche all'interazione con tutte le amministrazioni, eccetera. Invece è essenziale garantire questo accesso all'assistenza sanitaria già dalla prima fase di accoglienza, come già stato spiegato molto bene da Maria Assunta Rosa, compreso ovviamente per la salute mentale, dove il piano d'azione precedente già promuoveva la creazione di reti di competenza di esperti nel campo della salute, ad esempio nella salute mentale dei rifugiati, soprattutto per tutto quello che riguarda lo stress post-traumatico, in stretta collaborazione ovviamente con le autorità sanitarie, le ONG e le organizzazioni dei professionisti sanitari per la prevenzione e la diagnosi precoce dei problemi e l'erogazione di assistenze e cure. Allora, tutto questo era previsto già dal 2016, però il nuovo piano che verrà adottato la settimana prossima ammette che purtroppo il progresso in questa materia finora è stato un po' insufficiente e che c'è ancora molta strada da fare nell'Unione Europea. Stavolta il nuovo piano dedicherà anche un capitolo specifico alla salute e l'accesso alla salute, riconoscendo da un lato i migranti possono ovviamente ritrovarsi in una situazione di rischio anche più alto rispetto a altre fasce della popolazione per sviluppare disturbi mentali dovuti, diciamo, ai traumi subiti sia nel loro paese di origine, sia durante il viaggio, sia anche al momento dell'accoglienza in Europa per vari motivi come il loro isolamento, la loro difficoltà di interagire e anche le possibili discriminazioni. E dall'altro lato questa difficoltà anche perché incontrano maggiori problemi per accedere alla salute rispetto a un cittadino nazionale o europeo, soprattutto quando si tratta anche di accedere ai servizi di salute psichica. Il nuovo piano d'azione quindi promuoverà più esplicitamente ancora l'accesso alle cure mediche, compreso per la salute mentale, tramite i vari fondi europei. Sono molto attivi i fondi sociali europei, ovviamente anche il fondo asilo migrazione già menzionato, i fondi di sviluppo regionale, riconoscendo ovviamente anche le competenze che esistono a livello territoriale nell'ambito in paesi come l'Italia. E poi questa promozione si deve anche fare attraverso le attività di formazione per il personale medico, l'accesso a una migliore informazione dei migranti su come accedere a questi servizi e ovviamente gli scambi anche di esperienze tra gli stati membri. Allora, per quanto riguarda poi per esempio il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, di cui ha già parlato ampiamente Assunta Rosa, ci sono ovviamente molti progetti già indicati che vengono finanziati attraverso il programma nazionale gestito dal Ministero dell'Interno, quindi non mi soffermo su questo. Quindi solo per complementare questa breve presentazione, vorrei ricordare anche che da un lato ci sono anche fondi di assistenza emergenziale sempre sotto il FAMI, che sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, dalla Direzione Generale Home, che in Italia finanziano anche vari progetti, fra i quali c'è anche il progetto iCare, Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency, di 9 milioni di euro con la regione Emilia-Romagna come capofila e partner contrattuale della Commissione europea, e altre tre regioni come co-beneficiari, Lazio, la Toscana e la Sicilia. E quindi questo progetto, che è iniziato nel gennaio 2019 e che dovrebbe correre fino all'estate prossima, ha come obiettivo principale di migliorare la fase di accoglienza e ottimizzare l'accesso ai servizi sanitari territoriali, predisponendo interventi multidisciplinari che tengono conto delle buone prassi attuate nelle varie regioni. Quindi sicuramente anche delle attività molto complementari allo studio anche dell'IPS. Infatti conviene sottolineare che questo progetto, per esempio, sostiene anche l'implementazione in queste quattro regioni delle linee guida del 2017 del Ministero della Salute, di cui sicuramente si parlerà ancora più nel dettaglio nelle presentazioni seguenti. D'altro lato, vorrei anche attirare l'attenzione sulle cosiddette azioni dell'Unione, che sono, diciamo, altri progetti gestiti direttamente dalla Commissione europea, da Bruxelles, dalla DG Home, sotto il FAMI, che riguardano dei progetti transnazionali e che spesso vengono finanziati attraverso dei bandi. E lì vorrei attirare l'attenzione su un bando attualmente aperto, dove è possibile anche sottoporre delle proposte fino al 16 febbraio del 2021 la tematica di accesso ai servizi di base, compreso ovviamente la salute, e il bando fa anche esplicitamente riferimento alla salute mentale, sempre con l'obiettivo ovviamente di migliorare la disponibilità delle informazioni che esistono in questo ambito nei vari stati membri, e ovviamente la capacità dei vari fornitori di servizio, le autorità pubbliche, le autorità private, tutti gli stakeholders, di migliorare l'approvvigionamento di servizi di salute in questo ambito. E quindi questo bando potrebbe forse anche essere un'opportunità per portare avanti studi importanti come quello svolto dall'IPRS anche su una scala europea e scambiare anche queste buone prassi con altri stati membri che sicuramente potranno anche beneficiare della vasta esperienza già raccolta dall'Italia in questi ultimi anni in questo campo. Quindi è un buon incoraggiamento sia all'istituto ma anche agli altri partecipanti di considerare questa possibilità e di contribuire così ancora di più al dialogo anche con gli altri stati membri, che poi anche la Commissione europea potrà tener conto nelle buone prassi sempre da promuovere in questo ambito. Vi ringrazio molto per l'attenzione e rimango ovviamente a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie. La ringrazio molto per l'intervento, per aver segnalato anche le molte azioni e anche per aver indicato una possibile opportunità per proseguire su questa strada, e sicuramente la disturberemo anche per capire meglio come fare eventualmente a coordinare una un progetto italiano, diciamo pure a vocazione italiana che si rivolge all'Europa proprio grazie all'esperienza maturata. Volevo anche dire, ma questo credo che lo affronteremo successivamente, che forse quello che noi abbiamo cercato di fare con questo progetto era un po' aprire forse uno spazio di riflessione relativamente alle linee guida del Ministero della Salute, vado quindi un po' sul tecnico, diciamo così, perché le linee guida del Ministero della Salute mettevano particolarmente l'accento sul tema delle persone torturate, esposte a violenze, diciamo esplicitamente, quindi diciamo ci era parso almeno, e pensiamo un pochino di aver riscontrato in effetti un'intesa su questo, aveva un approccio meno che tendeva a identificare all'interno delle grandi tema delle migrazioni forzate dei target specifici. Invece ci sembrava e ci sembra insomma che quello che andava sostenuto fosse, nel caso specifico dell'Italia, capire come mettere in rapporto dei soggetti relativamente nuovi, cioè i centri di accoglienza, quindi soggetti diciamo che spesso nascevano anche in maniera improvvisa sul territorio, soprattutto nei periodi della grande emergenza, con le reti dei servizi territoriali, in particolare quelli per la salute mentale. E questo ci è sembrato essere un po' la sfida più grande.